X24, la storia. È l'11 settembre del 1980, la Fiat annuncia un piano di ristrutturazione che prevede tra l'altro 14.000 licenziamenti. Comincia così un braccio di ferro lungo 35 giorni con operai che scioperano e bloccano i cancelli delle fabbriche. Una trattativa durissima tra governo, Fiat e sindacati. Poi un colpo di scena. Il 14 ottobre dell'80, 40.000 tra impiegati e quadri della Fiat scendono in piazza per dire stop a scioperi e picchetti. La loro richiesta è una sola: vogliamo lavorare. Per il sindacato è una clamorosa sconfitta, per la Fiat una grande vittoria. Oggi su Radio 24 raccontiamo la storia di quell'incredibile marcia che ha cambiato per sempre i rapporti tra sindacato e industria in Italia. E questa storia comincia nel maggio di quello stesso anno, il 1980. Torino, venerdì 9 maggio 1980. I vertici della Fiat annunciano: da settembre per 8 giorni scatterà la cassa integrazione per 78.000 dipendenti. Il provvedimento viene motivato con una nuova grave crisi dell'auto. Piero Fassino, all'epoca responsabile del Partito Comunista per le fabbriche, spiega il quadro della situazione. Era l'epilogo di anni nei quali la Fiat aveva perso in competitività. Era un'azienda che aveva bisogno di una profonda ristrutturazione. Sabato 10 maggio 1980. I sindacati chiedono e ottengono l'apertura di una trattativa. Sede designata il Ministero del Lavoro a Roma. Al tavolo i rappresentanti della Fiat e della FLM, la Federazione dei Metalmeccanici, che riunisce gli operai iscritti ai 3 sindacati. Ma la Fiat si mostra da subito intransigente. Raffaele Morese, all'epoca segretario FLM. La Fiat ha cercato lo showdown. Voleva spiegare al paese, all'opinione pubblica, che la gravità della crisi era tale da non consentire pannicelli caldi. Anche la mediazione del governo, all'epoca guidato da Francesco Cossiga, sembra inutile. E del resto, i rapporti della Fiat con i sindacati e i lavoratori sono ormai deteriorati da 10 anni di scontri durissimi, come ricorda Carlo Callieri, a quel tempo direttore del personale di Fiat Auto. Era clima orrendo, posso definirlo soltanto così. Diciamo, i capi, le strutture di comando e di controllo erano molto, molto esitanti a prendere qualsiasi posizione nei confronti di chiunque. Primo novembre 1974. Ai vertici della Fiat, come responsabile della pianificazione, finanza e controllo, arriva Cesare Romiti. La sua nomina è imposta da Enrico Cucce. Mediobanca si sente tutelata da questo ex manager di Stato, un uomo di polso, infaticabile e autoritario. Io sono molto, molto, molto più cattivo dell'avvocato Agnelli. E questo è il suo peggior difetto? No. Romano, 51 anni, Romiti ha fama da duro. Ad attenderlo a Torino c'è una situazione difficilissima. Nelle fabbriche, non solo alla Fiat, trova terreno fertile anche il terrorismo. Pur con alterni risultati, il sindacato fa di tutto per porre un argine alla violenza. Così spiega Fausto Bertinotti, all'epoca segretario della CGIL Piemonte. Se il terrorismo è stato sconfitto in Italia, lo si deve in grandissima misura alla capacità che il movimento di massa e il sindacato dei consigli hanno avuto di prosciugare l'acqua in cui cresceva il pesce terrorista. Piero Fassino. Quelli erano anni nei quali noi sentimmo la responsabilità di guidare una reazione democratica a difesa delle istituzioni, della democrazia, dello Stato, della libertà, contro le organizzazioni terroristiche, pagando anche con nostri compagni sul campo. Ricordo l'assassinio di Guido Rossa. Genova, 24 gennaio 1979. Guido Rossa, operaio dell'Italsidere e sindacalista della CGIL, viene ucciso dalle Brigate Rosse, che lo accusano di aver denunciato un suo collega, fiancheggiatore delle BR. Ma anche la città di Torino viene colpita duramente dal terrorismo e la Fiat paga un prezzo altissimo. Il 29 novembre 1977 i brigatisti rossi uccidono Carlo Casalegno, vice direttore della Stampa, il quotidiano di Casa Agnelli. 2 anni dopo, il 21 settembre 1979, Prima Linea colpisce a morte un dirigente Fiat, Carlo Guglielmo. E poi ci sono gli agguati, i 16 capi reparto feriti, i sequestri lampo, le intimidazioni continue, tanto che centinaia di capi dell'azienda sono costretti a muoversi sotto scorta. Così Carlo Callieri. Giravo armato, mi allenavo a sparare, tutte quante robe che servivano, come dire, a esorcizzare il rischio. Dopo l'omicidio Ghiglieno, la Fiat decide di reagire. Il 9 ottobre 1979 l'azienda procede al licenziamento di 61 operai. L'addebito è indisciplina e comportamenti scorretti, ma in realtà, pur non potendolo dire esplicitamente, i 61 vengono allontanati perché ritenuti terroristi. Dunque, anni terribili, pieni di lotte durissime, ma la Fiat non cede. Quei 61 lavoratori non rientreranno mai più in fabbrica. In realtà è solo il primo round dello scontro, la vera battaglia è appena all'inizio. L'amministratore delegato della Fiat, Umberto Agnelli, lancia un segnale chiarissimo. È sabato 21 giugno 1980. In un'intervista a Repubblica, Umberto Agnelli annuncia l'assoluta esigenza di operare tagli al personale. Per tutta risposta, i metalmeccanici proclamano uno sciopero generale. È martedì 1 luglio e a Torino parla il leader della CGIL, Luciano Lama. La Fiat deve capire che contro questo suo disegno trova schierato non soltanto la maestranza delle sue fabbriche, ma tutto il mondo del lavoro. Mercoledì 2 luglio 1980 riprendono le trattative. Per tutto il mese Fiat, sindacati e governo provano a comporre un quadro complicatissimo. Neppure l'intervento del ministro del lavoro, Franco Foschi, serve ad avvicinare le parti. Poi, il 31 luglio, un nuovo colpo di scena. Nel pomeriggio di ieri, Umberto Agnelli ha annunciato le sue dimissioni da amministratore delegato della casa automobilistica torinese. Cesare Romiti diventa invece l'amministratore unico della Fiat. Fucuccia, come rappresentante del sistema bancario, che andò a trovare l'avvocato Agnelli e gli disse che oramai la Fiat o si metteva su un percorso che evidentemente non poteva non portarla allo scontro, oppure il sistema bancario avrebbe dovuto rivedere le cose. Gli Agnelli dunque hanno fatto un passo indietro. È un piccolo terremoto, un evento epocale per Torino, ma non solo. Se per molti l'Italia è anche la Fiat, per tutti la Fiat è soprattutto gli Agnelli, e in particolare Gianni. Giovanni Agnelli, detto Gianni, per tutti l'avvocato, è l'uomo d'affari più elegante del mondo. Dicono che questo è lo stile Agnelli. C'è qualcosa che invidia a chi si è fatto da solo? Per chi si è fatto da solo ha certamente una vita più avventurosa, una vita di maggiori rischi e più avventurosa, ma io mi faccio pensare a cosa non invidia quelli che si sono disfatti da soli, quanti ce ne sono. Battute fulminanti, stile inimitabile, carisma e fascino, è Gianni Agnelli. Ma al suo fianco, in posizione defilata, quasi nell'ombra, c'è sempre il fratello Umberto. Meno estroverso, meno fantasioso, il dottore è uomo più disposto all'ascolto, capace di mediazioni e di accomodamenti anche nei periodi più difficili. Dunque, per gli osservatori più attenti, le sue dimissioni sono un segnale chiarissimo. La Fiat va alla guerra e Cesare Romiti è il generale che dovrà andare a una battaglia senza esclusione di colpi. Qui su Radio 24 stiamo raccontando la storia di quei giorni di tensione davanti ai cancelli della Fiat di Torino che hanno cambiato per sempre la storia del nostro sistema di fabbrica. Rieccoci su Radio 24 con la storia della marcia dei 40.000. Martedì 9 settembre 1980. Nuovo incontro tra i vertici della Fiat e i sindacati. Ma il confronto si arena subito. Si parla sempre più insistentemente di molte migliaia di licenziamenti, anche se ufficialmente per il momento c'è solo la cassa integrazione. La trattativa è comunque sospesa, non sembra ci siano sbocchi. È un muro contro muro senza via d'uscita. Gli operai sono sul piede di guerra. Noi in questi anni noi abbiamo lottato all'interno della fabbrica e se non facciamo questo vuol dire che il movimento operaio rimarrà sconfitto. E siamo così a giovedì 11 settembre. A questo punto la Fiat esce allo scoperto con una mossa clamorosa. L'azienda infatti annuncia il licenziamento di 14.000 operai. La risposta degli operai è forte, ce lo ricorda uno di loro, Tommaso De Fazio. Un po' prima di metà settembre, mi sembra, vengono annunciati i 14.000 licenziamenti. Ecco, fu questa la

Man mano che questi 2000 o giù di lì uscendo dalla fabbrica camminavano, si unì un sacco di gente. Si unirono quelli che magari non hanno grandissimo coraggio di mettersi in mostra, ma in quell'occasione il coraggio venne e si unirono. Improvvisamente, in modo del tutto inatteso, per le strade di Torino si riversano migliaia di persone. Non hanno bandiere rosse, non indossano né l'eschimo né la tuta da operaio. È una folla distinta, borghese, molti sono in giacca e cravatta. Una massa foltissima di colletti bianchi che marciano compatti verso la prefettura per chiedere il ripristino dell'ordine pubblico. La magistratura, dicono, deve rimuovere i picchetti anche con la forza per consentire a chiunque lo voglia di recarsi al lavoro. Ho partecipato intensamente, è peccato che la Fiat ha dato ordini successivi di partecipare tutti, ha detto solo ai capi e poi ha esteso l'invito a tutti, altrimenti sarebbero stati non 30.000, 40.000 ma il 90% dei dipendenti Fiat. Il fronte sindacale si spacca definitivamente, come ricorda l'operaio Michele Nieddu. In mezzo a quelle persone che parteciparono a quella cosiddetta marcia, ce ne sono e ce n'erano parecchi che fino a qualche settimana fa erano davanti ai cancelli. Gli operai intuiscono che quella giornata può avere un effetto determinante sull'esito della lotta e gridano la loro rabbia. Quella marcia è un'altra furbizia pilotata dai padroni e quei 40.000 arrivati in piazza dopo un gigantesco passaparola sono stati in realtà chiamati a raccolta uno ad uno dai vertici della Fiat. Circostanza negata da Cesare Romiti ma parzialmente confermata da Carlo Callieri. Può darsi che Callieri, può darsi che Annibaldi qualche opera l'avessero fatta, ma non a strobillare per andare in piazza. Ognuno di loro era in grado di telefonare a una dozzina di persone. Se ciascuno di loro avesse fatto questo e ciascuno di quelli ai quali avevano telefonato avesse fatto altrettanto, una specie di catena di Sant'Antonio telefonico, molto probabilmente avrebbero raccolto qualche decina di migliaia di persone, e così è stato. Pilotata dall'azienda o nata spontaneamente, la marcia dei 40.000 rappresenta la rivincita della maggioranza silenziosa. In piazza i capi ottengono anche la solidarietà della città di Torino, che vive con la Fiat un rapporto complesso, ma inscindibile. E c'erano insieme molti cittadini torinesi che ne avevano ormai fin sopra i capelli di quella tracotanza che fermava i tram, che andava durante i 35 giorni in macelleria a ordinare bistecche, dicendo poi vada Agnelli. Una città bloccata, dopo 35 giorni di scontri durissimi, si arriva a quella giornata storica. È il 14 ottobre del 1980. Gli operai e gli impiegati della Fiat scendono in piazza per chiedere la riapertura della fabbrica. Qui su Radio 24 stiamo raccontando la storia di quei giorni di tensione davanti ai cancelli della Fiat di Torino che hanno cambiato per sempre la storia del nostro sistema di fabbrica. Subito dopo la pubblicità. Rieccoci su Radio 24, è il 14 ottobre del 1980, una folla silenziosa di 40.000 dipendenti Fiat invade le strade di Torino e chiede il ritorno alla normalità. A Roma intanto il governo è di nuovo al lavoro per tentare l'ennesima mediazione. I sindacati hanno proposto la cassa integrazione a rotazione e pensano a quel punto di essere vicini all'intesa. Ma quei 40.000 in marcia a Torino fanno saltare ogni ipotesi di accordo. Così Giorgio Benvenuto, allora segretario generale della UIL. Ci vedemmo per firmare. Mentre stavamo facendo questo accordo, c'è Romiti che era lì e ogni tanto entrava qualcuno che gli portava. Allora le agenzie erano i tech dell'ANSA. Man mano che questi tech arrivavano, era che i quadri erano usciti, che erano in corteo, che erano 10.000, 20.000, 40.000. A quel punto Romiti ci disse: mi dispiace, l'accordo non si può fare più. Un magistrato di Torino ha emesso una ordinanza in base alla quale tutti gli operai che vogliono rientrare in fabbrica, tutti i dipendenti, devono poterlo fare.

di chi era Luigi Arisio. È una battaglia difficilissima, che molti di noi dall'inizio pensavano che sarebbe stata una battaglia persa, ma che è una battaglia che andava condotta per condividere fino in fondo questa straordinaria storia di dignità dei lavoratori e delle lavoratrici della Fiat. È un grande rimpianto, perché è la disperazione di quei lavoratori che si videro in cassa integrazione guadagni, e perché sapevano che non sarebbero più rientrati in Fiat. A me quella vicenda che ho vissuto in prima persona, quella responsabilità che avevo, ha insegnato una cosa molto importante che non mi sono più dimenticato e a cui cerco di ispirare ogni giorno la mia attività politica, che di fronte alla realtà la cosa peggiore che si può fare è nascondersela o raccontarsela diversa da quella che è. Continuiamo con la storia dopo la viabilità. Rieccoci su Radio 24. Il 14 ottobre del 1980, lo abbiamo appena raccontato, scendono in piazza migliaia di impiegati e quadri Fiat per chiedere la riapertura dei cancelli della Casa Torinese. Ma sentiamo come ricorda quei giorni Cesare Romiti, protagonista di quei momenti. Dottor Romiti, la cosa più importante invece che ha imparato lei da quell'esperienza qual è stata? Ho imparato che quando uno è convinto di operare nel giusto e è determinato, la vittoria, l'ottenimento dello scopo si ottiene. C'è qualche rimpianto? Uno l'ha detto passando vicino a Berlinguer. Beh, quello fu un episodio fra me e Berlinguer, certo. Da uomo a uomo. E invece dal punto di vista più generale qualche rimpianto? No, per quanto riguarda la vertenza nessun rimpianto. Agivamo allora, non ero solo, avevo dei collaboratori bravissimi, vorrei citarne subito due, a Callieri e Annibaldi, che sono stati determinanti, certo, per i risultati che ho ottenuto. E abbiamo agito qualche volta anche così, al di là di quelle che potevano essere un ragionamento raziocinante. Ma qualche rimorso ce l'ha? Rimorso no, perché credo che quello che la chiusura di quella vertenza e la ripresa del lavoro in Italia, non nella Fiat, è partita di lì. È partita da. Senta, ma il merito è stato della vittoria, è stato più suo oppure più di Callieri? Metterei insieme Callieri e metterei anche Annibaldi, Cesare Annibaldi e Carlo Callieri, e loro erano praticamente coloro i quali tenevano i rapporti tutti i giorni, quindi erano in prima linea. Callieri, nel momento in cui lo stabilimento di Mirafiori era occupato, lui la notte riusciva a entrare in fabbrica e a andare, quindi era oltretutto anche un coraggioso. Senta, l'avvocato? L'avvocato l'avevamo pregato noi all'inizio, per l'avvocato si distacchi, si tolga, perché è una vertenza questa micidiale. Vorrei che se ci fosse la vittoria, questa vittoria possa, certo, essere attribuita a lei, ma se ci fosse questa sconfitta, lei è l'azionista e deve rimanere. Deve restare fuori. Senta, ma Lama, Guarniti, Benvenuto, come si sono comportati allora? Beh, io ho avuto molti scontri con Lama, Guarniti e Benvenuto, certo, ho un ottimo ricordo di Lama, perché era un grande combattente, un uomo però leale, che se ti diceva una parola era quella e non c'erano dubbi. Quindi affidabile. Affidabile. Come controparte. Con Guarniti c'erano più attriti, più con Benvenuto si riusciva a ragionare. Io non farei paragone con quelli di oggi, mi sembra di cattivo gusto. Le sembra di cattivo gusto, insomma. Loro facevano bene il loro lavoro comunque. Certo, benissimo. Quelli di oggi lo fanno bene, eh? Ho detto che non voglio entrarci. Senta, ma è vero che l'allora Presidente del Consiglio, Cossiga, aveva talmente paura di quella situazione che aveva paura che scoppiasse la guerra civile e vi aveva chiesto di ritirare licenziamenti? Esattamente, esattamente. Me lo disse lui, ma me lo fece dire poi dal ministro degli interni di allora, che era Virginio Rognoni. Mi fece telefonare una mattina drammaticamente dicendo che avevano le prove che gli operai si erano riuniti, si erano congiunti con quella che era allora le forme terrorismo. Di terrorismo. E io gli lei cosa gli ha detto? Che lui faceva il ministro degli interni e che doveva colpirmi se io andavo fuori legge. Io dovevo difendere l'azienda, quindi non mi poteva fare quella richiesta. Quindi non gli ha fatto nessun effetto? Nessun effetto. Eravamo quasi, voglio dire, quasi non ragionavamo in quel periodo, perché quando si è nel pieno di una battaglia di quell'intensità... Sì, uno va dritto per la sua strada e basta. E oggi lei dice, l'ha detto un po' prima, non c'è un rischio di esplosione sociale nonostante... l'aumento progressivo continuo dei licenziamenti, la perdita dei posti di lavoro. Come ho detto all'inizio, la differenza sta nel fatto che allora c'era anche il terrorismo, che era la maniera più esplosiva. Ma non innesca, non può innescare. Speriamo di no, quello è l'augurio, quello che io mi... È una speranza, quando però... riesco a parlare con la gente, dico sempre con le persone che hanno oggi la responsabilità di condurre le cose, è proprio quella. L'aumento del numero dei posti, della perdita dei posti di lavoro è micidiale. È micidiale, può innescare problemi. Io mi auguro di no, bisogna appunto per questo tenere uniti i sindacati, fare in maniera che il sindacato sia responsabile e che non si avvii su una strada che poi è senza fine. Senta, ma lei da manager che rapporto ha avuto con la politica? Difficilissimo, me ne dispiace, difficilissimo, ma con tutti, con i democristiani, con i socialisti, perché non tolleravo che certe cose potessero avvenire e quindi gli scontri, mi ricordo, io oggi ho un ottimo ricordo di Bettino Craxi, ma quanti scontri ho avuto? Incredibile. Ma l'oggetto principale dello scontro qual era? Era l'invadenza, l'invadenza. E non so, noi avevamo comprato la Rizzoli, e la Rizzoli ci aveva il Mattino di Napoli e De Mita voleva cambiare il direttore e io gli dissi di no. In quel caso era De Mita, non era Craxi. Non era, ma parlo della classe politica, ce li metto tutti. Senta, però, lei però mi faccia dire, io ci litigavo, qualche volta mi arrabbiavo, però era una classe politica migliore di quella attuale. Senta, ho letto che lei ha, oppure aveva nel suo studio, un cartello che diceva: a qualunque livello della scala sociale la miglior forma di autorità è l'esempio. Esatto. Ce l'ha ancora? Ce l'ho. Ecco, ma che cosa vuol dire esattamente? No, vuol dire questo me lo regalò uno, io non ho molto curato i miei figli per le incombenze, era mia moglie che li curava, e quando uno di loro raggiunse i 18 anni mi regalò quel cartello, voleva dire: tu non hai fatto niente per noi, però con l'esempio ci hai insegnato tante cose. E per lei l'esempio chi è stato? No, vede, se mi consente di completare il concetto, vorrei dire che in questo periodo di disorientamento del paese, se ciascuno di noi nei confronti dei propri figli, dei propri padri, dei propri vicini, degli amici, della gente che conosce, sapesse e fosse consapevole che se si comporta bene, quell'esempio è determinante perché il processo prenda un'altra strada. E i suoi esempi importanti nella sua vita chi sono stati? Beh, i miei esempi importanti sono stati, diciamo Enrico Cuccia, perché prima è un uomo tutto, prima di tutto, è stato Gianni Agnelli, col quale poi alla fine, negli 25 anni, si è restaurato un rapporto di grande amicizia. Ma che cosa ha imparato, in che cosa è stato un esempio Gianni Agnelli per lei? Beh, Gianni Agnelli è un esempio, per esempio, nella verità. Gianni Agnelli era uno che non sapeva dire le bugie. Era uno che si metteva nei guai, ma se la domanda gli veniva posta... O diceva la verità o stava zitto. O stava zitto, ma spesso volte diceva la verità. Senta, ma qual è la qualità principale di Marchionne, secondo lei? Ma mi pare in questo mi piace perché mi ricorda un po' quello che facevo io, è determinato. Come manager lei quanto si dà? Come manager... Che voto si dà? Insomma, mi darei un po' parecchio più della sufficienza. Parecchio più della sufficienza. Senta, lei ha rimproverato a Marchionne, però sulla gestione, sulla questione sindacale ha detto: il sindacato lo puoi battere, ma non lo devi dividere. Io non l'ho rimproverato, ho fatto una constatazione. Ho detto che la forza sindacale, tutto sommato, è quella che ti sta di fronte, con cui ti puoi... Insomma, quella che ti aiuta a gestire la situazione. Ti aiuta a gestire, senza la quale non fai. Se dividi il sindacato, c'è quella parte del sindacato, e nel caso specifico è il più grosso sindacato italiano, che ti sarà contro, ti disturberà, ti rovinerà la fabbrica. Quindi ho capito che è un lavoro lunghissimo e faticoso. Però ci vuole tanta pazienza. Bisogna arrivare alla conclusione e portare tutti i sindacati sulla stessa linea. E quindi, secondo lei, questa strategia di Marchionne di dividere i sindacati è sbagliata? Sì. Il futuro lo dirà. Io trovo che forse non è proficuo per l'azienda. Ringrazio Rachele Bonani, Pietro Gentile, Manuel Guerrini, Antonella Migliaccio in redazione, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. A domani. We'll be right back.